e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, eccoci qua, non mi ricordo neanche, non ho aperto la scaletta se abbiamo cominciato con un tema di apertura. Fammi un po' vedere, i ragazzi hanno predisposto qualcosa o ci inventiamo l'introduzione? Auguriamo a tutti una buona settimana. Esatto. Il Salone del Risparmio alle porte. Mamma mia, che tre giornate impegnative che ci aspettano. Però insomma abbiamo tante belle cose interessanti come sempre da raccontarvi da là. La nostra trasferta è breve, però insomma avremo modo di muoverci da qui alla fiera con i nostri piedini, Nicoletta. Io ero più comoda quando era vicino a casa mia, però pazienza. Ah, lì alla Bocconi, invece vabbè. Era più scomoda per me. Ho chiesto, vabbè. Dico allora, o la spostate oppure io non ci vengo più. Sì, domani c'è il Salone del Risparmio. Invece per quello che riguarda oggi, allora ti faccio una breve fotografia. Una fotografia un'istantanea dei temi di cui mi occupo stamattina. Fra un po' con Alfonso Maglio di Marzotto Sim faremo un punto sui mercati, come si apre la settimana. Qualche volta lo manchiamo questo appuntamento, oggi invece abbiamo deciso di ripristinarlo perché con tutta la tensione geopolitica di settimana scorsa, i fatti macroeconomici, c'è stato il dato sulla disoccupazione americana che ha un po' scompaginato gli investitori, allora dico sai che c'è questa settimana, vediamo un po' che succede sui mercati. E poi mi occuperò di pensioni, oggi c'è tutto lavoro qui al Sole 24 ore, arriva Fabio Venanzi, nostro esperto di previdenza, che ci racconta che punto è il cumulo gratuito per quelle persone che hanno versato i loro contributi in casse diverse, cosa possono fare per cumulare tutto gratuitamente. Io invece in tre parole parlerò di fumo, di curcuma e di piedi. Se troviamo una relazione tra queste tre parole, Carmelo, sto già pensando, ma questa che cosa si è inventata? Fumo, piedi, curcuma, c'è una relazione, ragazzi. Davvero, la fra scopriremo tutti e tre? Strada facendo. Ma non sto inventando, ma va bene così. Va bene, ma qua bisogna regalare dei gran libri, se indovinano la relazione. Va bene, partiamo. Sì, non è la primavera che ci ha dato la testa. Proviamo a far partire la settimana in maniera serena per tutti i nostri ascoltatori. Allora, per quello che riguarda la borsa, abbiamo un po' di quadro contrastato. Abbiamo la solita Londra positiva più 0,04, Parigi meno 0,42, Francoforte meno 0,07, Milano meno 0,22%. Come dicevamo, abbiamo avuto due fatti piuttosto inattesi nella seconda parte della settimana scorsa: l'attacco americano alla Siria, anche se era un po' nell'aria, insomma non è mai una bella notizia che poi si scatenino in questa maniera appunto le questioni politiche internazionali. E poi soprattutto dal punto di vista economico abbiamo avuto il dato sulla disoccupazione americana di marzo, che è sceso dal punto di vista percentuale. Pensa che la disoccupazione è al 4,5% negli Stati Uniti, è un regime di piena occupazione, però a marzo l'economia stellestrisce ha creato meno posti di lavoro del previsto, solo 98.000 rispetto ai 175.000 180.000 attesi. Questo ha creato un po' di nervosismo, la borsa americana ha chiuso leggermente negativa e soprattutto tutto, come al solito, quando vengono diffusi questi dati si scatenano poi di nuovo tutte le previsioni sui tassi di interesse, cosa farà la Federal Reserve e poi cosa faranno tutte le altre banche centrali. C'è di certo che il dollaro sta recuperando, l'euro è sceso a 1,0580 rispetto al biglietto verde. A Milano vediamo intanto i migliori titoli di stamattina: Moncler, Fineco Bank, Fiat Chrysler e UBI Banca guadagnano tra il punto e poco sotto il punto percentuale, mentre i peggiori sono, con un ribasso dello 0,9%, Mediobanca ed Enel. Io ho fatto, come dicevo, l'istantanea veloce. Per approfondire i temi del giorno abbiamo interpellato Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sim, che salutiamo. Benvenuto e buon inizio settimana anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, un punto della situazione fatto da me, a cui chiedo a lei appunto di corredare con qualche contenuto. Peraltro in molti si sono chiesti l'attacco degli Stati Uniti alla Siria, poi anche il dato sulla disoccupazione americana. Sono temi che possono provocare in qualche maniera una rotazione settoriale da parte degli investitori, abbandonare qualche asset su cui sono investiti per posizionarsi su altri. Insomma, cosa state vedendo voi operatori, Maglio? Allora, gli eventi citati non sono eventi molto rassicuranti, soprattutto il primo, quello dell'attacco in Siria, al di là dell'aspetto tragico dal punto di vista umano, potrebbe portare delle conseguenze sui mercati finanziari. Noi non pensiamo che l'evento singolo possa innescare un processo di rivalutazione del contesto, inducendo gli operatori a riposizionarsi su temi più difensivi. Affinché ciò accada, e speriamo che non accadrà mai, ci sarebbe bisogno di una congiuntura sfavorevole ben più ampia, quindi anche che i negoziati di Brexit vadano male, che ci sia una regressione del processo inflattivo, che la spinta all'economia reale annunciata da Trump non abbia luogo. Allora, se tutti questi elementi citati dovessero volgere avere un esito negativo, allora sì, ci potrebbe essere un riposizionamento verso asset, verso attivi finanziari ritenuti meno pericolosi, tipicamente sull'azionario le azioni delle telecomunicazioni, delle utilities o più in generale l'oro e il dollaro. Noi però riteniamo che al momento questi presupposti non ci siano. Certo. Per passare al secondo punto, quello della disoccupazione, è anche questo non pensiamo che sia particolarmente preoccupante. Si tratta di un'economia matura, quella americana, quindi ci può anche stare che, dato il primo trimestre, sugli occupati non sia superiore alle attese. Certo. Comunque continua a crearsi posti di lavoro. Questo dollaro impostato a rialzo, invece? Il dollaro impostato a rialzo, secondo noi, per due ragioni. Il primo è il processo di politica monetaria restrittiva ormai in atto, che comunque favorisce. La teoria economica ci insegna che favorisce le valute. E la seconda è quella della funzione di valuta rifugio. Ormai la sterlina è diventata volatile per la Brexit. Non ci sono altre valute ritenute, tra virgolette, sicure dove si può, alle quali si può guardare in momenti ritenuti così un po' critici. Quindi il dollaro brilla un po' anche di luce riflessa e probabilmente anticipa anche il miglioramento del commercio estero derivante dall'implementazione delle politiche di Trump, anche se queste non sono ancora avvenute. Allora, Nicoletta, lo sai che stamattina Samantha Cristoforetti era in Borsa Italiana? Dai, sì. No, ci piace molto Samantha. Ha praticamente fatto da madrina al debutto in borsa di Avio, che è la società che produce lanciatori spaziali, per cui naturalmente il tema era suo. Avio è una tecnovisionaria come noi, tra l'altro. Ecco, esatto. Hai visto? Abbiamo qualche cosa in comune. In comune, è stata premiata come noi con questo riconoscimento. Maglio, detto che insomma questo sì, gossip magari le interessa relativamente, però no, Avio interessa. Le è piaciuta la notizia. Sì, sì. Avio ha avuto un debutto in borsa, potremmo dire stellare, ha fatto più 10% già dai primi minuti di contrattazione. Come valutate, sì, questa società? Ma la valutiamo abbastanza bene, come tutte le società ad elevato valore aggiunto. Sono società come Avio, producono dei beni che difficilmente possono essere replicati, sono come diciamo noi in gergo beni ritenuti commodities, cioè beni che sono fungibili. Nel caso di Avio questo non accade, per cui la borsa sta premiando la marginalità elevata della società e che probabilmente sarà mantenuta nel tempo, perché difficilmente ci saranno nuovi entranti che potranno scalfire dei competitor pericolosi, insomma. Esatto. Per dirle in parole un po' più semplici, se produco yogurt può arrivare un altro che produce yogurt in maniera più efficiente. I lanciatori spaziali, diciamo, un mercato un po' più, ecco. Sì. Non vuole produrre dei lanciatori spaziali con noi, Maglio? Io, lei e Nicoletta mettiamo su una bella società, visto mai? Pensiamoci. Non si può mai dire. Guardi, mi dà dire, tra l'altro, l'occasione anche per dire che al Salone del Risparmio, fra i tanti eventi che ci sono, ce n'è anche uno organizzato da SGR molto importante italiana con Argotech, che invece è la società, Nicoletta, della quale noi indirettamente abbiamo parlato spesso, perché producono la tecnologia per fare i pasti che vanno poi con Samantha Cristoforetti nello spazio. La cucina è di Stefano Polato. Esatto. Che è stato il nostro anche chef di Mangia con me. La tecnologia invece di Argotech, che tra l'altro magari vi racconteremo meglio questa storia prossimamente. E senta Maglio, stiamo andando verso la chiusura. I bancari oggi un pochino sotto osservazione perché c'è l'aumento di capitale di UbiBanca, che deve comprare le tre good bank. Detto questo, le chiedo invece velocemente i temi più importanti su cui fare un focus nei prossimi giorni, insomma, quali dobbiamo monitorare. Allora, il giorno clou della settimana è il 12 di aprile, nel quale ci saranno i primi risultati delle banche americane. Si è aperta la comunicazione dei risultati trimestrali e di quelli della fine dell'anno scorso, e riporteranno JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. Quindi questo è un primo appuntamento abbastanza indicativo, perché ci fa capire com'è la situazione finanziaria sia per le banche di investimento che per le banche tradizionali. Tornando invece a casa nostra, sempre il 12, ci sono un bel po' di aste relative ai titoli di Stato, in particolare scadenze 2020, 2024 e 2030, e anche questi saranno indicativi per capire il livello di tasso e quindi il rischio paese implicito negli stessi. Peraltro è proprio una settimana che parte con un aumento dello spread fra il BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra il decennale italiano e quello tedesco questa mattina è intorno al 2,27%, il rendimento è al 2,27%, lo spread è a 204 punti base. Maglio, grazie per essere stato con noi, ci venga a trovare al Salone del Risparmio, noi da domani siamo lì. Molto volentieri, ok. Bene. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Buona giornata, andiamo velocemente al traffico. Andiamo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Cuore e denari. Sigarette la mattina. La la la la la la la. Sotto questa. Allora, per la rassegna stampa di Cuore, intanto, benvenuti a Cuore Denari. Stiamo affrontando la nostra mattina del lunedì e intanto vi auguriamo una buonissima settimana. Allora, torniamo a parlare di fumo di sigaretta, perché un gruppo di ricerca internazionale ha pubblicato uno studio su Lancet che sottolinea come, nonostante si sappia ormai praticamente tutto dei danni provocati dal fumo, il numero di chi non riesce a fare a meno delle sigarette nel mondo non cala, anzi è molto vicino al miliardo di persone. Noi commentiamo la notizia con il nostro dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che insieme alla dottoressa Munarini segue con noi sulle pagine di Cuore Denari una bella iniziativa per aiutare chi vuole smettere o provare a farlo ad abbandonare le sigarette, a farsi accompagnare in questo percorso che non è certo facile. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai vostri ascoltatori. Allora, dottor Boffi, lei sarà svenuto. Lo studio si basa sui numeri del Global Burden of Disease, un rapporto internazionale che ha vagliato i dati dal 1990 al 2015 e mette bene in evidenza che la percentuale di fumatori è calata, ma per effetto della crescita della popolazione mondiale il numero assoluto di fumatori è aumentato da 870 milioni a quasi un miliardo. Dottor Boffi. Purtroppo mi viene da ricordare. Mi viene da piangere? Da ricordare ancora una volta i dati dell'inizio secolo usciti dall'OMS, che parlava di un miliardo di morti previsti in questo secolo, per cui è scoraggiante, è sconfortante, però come abbiamo già detto anche recentemente, si fuma sempre di più anche tra gli adolescenti e quindi purtroppo. Sono dati sconfortanti, però non molliamo. Noi non molliamo, perché smettere di fumare non è facile, però per chi volesse provare a farlo avete, dottor Boffi, tutti gli strumenti per aiutarlo. Noi crediamo molto alla personalizzazione, all'aiuto, all'ascolto del paziente. Stanno uscendo anche dei dati anche da noi sulla personalizzazione anche a livello di genetica, quindi la cosiddetta farmacogenomica, e quindi cercare di fare terapie sempre più mirate per i vari tipi di fumatori e quindi cercare di individuare precocemente il tipo di fumatore che abbiamo di fronte e cercare di personalizzare così meglio la terapia. Certo, allora la nostra pagina, la nostra iniziativa che gentilmente il dottor Boffi insieme alla dottoressa Munarini segue ha proprio l'obiettivo anche di aiutarvi a smettere, soprattutto a sostenervi. Magari l'esempio, la strategia di chi ci scrive può esservi d'aiuto. E noi siamo andati proprio a leggere una testimonianza di un nostro ascoltatore che ci ha scritto e noi vogliamo farvela sentire per commentare la sua storia insieme al dottor Boffi, naturalmente anche a voi, all'800 24 0024. Per 30 anni ho fumato una media di 30 sigarette al giorno. Poi un mattino davanti allo specchio mi sono posto tre domande. La prima, come faccio a vedere quanta porcheria mi resta nei polmoni quando fumo? Si prende un fazzoletto bianco, si tira una boccata di fumo, trattenendola in bocca e la si fa uscire attraverso il fazzoletto a bocca quasi chiusa. Quel che si vede fa schifo. Seconda domanda, ma veramente uno stupido cilindretto di tabacco è più forte di me? Ma chi comanda qui? Terza domanda. Fatto il calcolo della spesa di un anno di sigarette, circa 3.000 euro, quante belle cose mi ci potrei comprare oltre alla salute. Ho smesso immediatamente. Allora, dottor Boffi, intanto voglio dirle che nel nostro studio di diretta, di regia, ci sono dei ragazzi giovani e quindi, dottor Boffi, approfittiamo di per lanciare un messaggione a questi ragazzi. Le mammine qua si scatenano. Ecco, le maestrine. Dottor Boffi, tra l'altro la lettera del nostro amico sottolinea una dimensione proprio alla cuore denari, perché c'è stata una riflessione sulla salute ma anche una riflessione sui denari spesi. Beh, sì, i ragazzi ci stanno ascoltando, adesso li abbiamo chiusi lì, ragazzi, mi raccomando. Beh, è una schiavitù il fumo, io un termine che non uso mai, che rifuggo, è quello di vizio, legato al fumo, è una dipendenza dannosa, direi la più dannosa, ma è anche e soprattutto una schiavitù legata a una vera e propria droga che è la nicotina. La schiavitù del fumo si manifesta in vari modi, anche economico. Quindi sono soldi, oltre che tempo, salute, energia che vanno in fumo con le sigarette, e quindi sono soldi che possono essere impiegati molto meglio, no? Per noi stessi, per gli altri, e quindi c'è tutto il discorso dell'esempio che non è facile. Sicuramente anche noi in Italia abbiamo purtroppo una scarsa, nel senso della coerenza e della reputazione in categorie che danno così, quelle con le persone con l'uniforme, vengono in mente i medici in primis, ecco, che ahimè ancora fumano in una percentuale troppo elevata rispetto a altri paesi, e quindi si fa presto magari a criminalizzare o a parlare male dei giovani, ma io penso che noi per primi dobbiamo cercare di ritagliare dei messaggi per la prevenzione migliori di quanto abbiamo fatto finora. Non esiste accettare, rassegnarsi a una percentuale di adolescenti fumatori così elevata come attualmente in Italia. Siamo al 37% di sedicenni che fumano, il primo posto in Europa, e questa è la dimostrazione che finora non siamo stati noi adulti sufficientemente capaci di far capire il valore della prevenzione. Dottor Boffi, è difficile per un genitore aiutare il figlio a smettere o a non cominciare, soprattutto se è fumatore lui stesso. I ragazzi attraversano quell'età in cui i consigli dei genitori non funzionano, quindi bisogna trovare in qualche modo delle strategie. Spesso anche gli adulti si comportano come ragazzini, perché ci sono persone che proprio non ci provano. Uno dei timori più frequenti è che, smettendo di fumare, non si abbia più la concentrazione e soprattutto si aumenti di peso, e questo rende molto difficile fare questo passo, che, ripetiamo, va fatto, poi ricadiamo, rifumiamo, non importa, riproviamo. Ogni volta che tentiamo di smettere di fumare abbiamo già guadagnato qualche cosa, vero dottor Boffi? Sì, non è facile. Queste cose, anche per merito vostro, di Radio 24, delle giornate mondiali senza tabacco, cerchiamo di farle capire quanto il fumo sia un togliersi qualcosa, non accrescersi di qualcosa, anche se l'immagine che spesso ci viene tuttora trasmessa dai film, dalla TV, va in senso contrario, no? Abbiamo avuto una settimana adesso di eventi, di vernissage con Salone Mobile a Milano, andando un po' in giro si vedeva continuamente adulti, non solo ragazzini, che fumavano. Per cui il fumo è ancora qualcosa che ha permeato in maniera profonda la nostra società. E quindi quello che dobbiamo cercare di far capire ai giovani è che smettere di fumare è una scelta di libertà, che fumo è qualcosa di omologato, qualcosa che viene deciso sopra la loro testa, e cercare anche un aiuto nella scuola. È quello che noi cerchiamo di fare, di far capire alla scuola che deve riempadronirsi, secondo noi rimpossessarsi di un dovere, che è quello, una volta si chiamava educazione civica, certo, di far capire ai ragazzi l'importanza di lavorare anche su queste cose e di contagiare positivamente i loro coetanei. Allora, Paolo, che ci chiama da Padova, all'800240024. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, io ho smesso di fumare nell'86, dopo vari tentativi. Ogni volta che smettevo e riprendevo, fumavo sempre di più. Nell'86 fumavo oltre 2 pacchetti di sigarette al giorno, non dico la marca per pubblicità, però. Sì, sono tanti. Sono tanti. Ho smesso, sono riuscito a smettere con le sigarette in tasca. perché quando mi veniva voglia di fumare prendevo il pacchetto, lo aprivo, annusavo profondamente e mettevo via, sembravo quasi un cocainomane. Sì, però ha funzionato. Ha funzionato, non fumo più. Ho mia moglie che fuma qualche sigaretta, ho provato a accenderle una sigaretta e il fumo che mi è venuto sulla lingua mi ha dato un disgusto mostruoso. Paolo, lei ce l'ha fatta. Intanto la ringraziamo per questa sua testimonianza. Poi alcuni ascoltatori mi dicono ma io voglio essere libero. Ma ciascuno deve essere libero di fare. L'importante è che sappia quello che sta facendo. Grazie a Paolo, grazie al dottor Boffi. Noi andiamo a sentire le notizie del nostro GR. Ritorniamo subito dopo insieme. Vi aspettiamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. E allora, insomma, il tema della pensione ci piace sempre tanto. Piace un po' meno a tutte quelle persone che negli ultimi anni hanno dovuto rinviare il momento del pensionamento per effetto di tutte le riforme che si sono susseguite. Detto questo, è anche un tema abbastanza complicato perché ogni tanto ci presenta delle novità alle quali bisogna adeguarsi, che ricadono ovviamente sui lavoratori che magari così, insomma, accarezzano l'idea di mettersi a riposo nel giro di poco tempo ed eccoli che vedono sfuggire il traguardo. Ci sono tra le tante novità degli ultimi tempi, come sapete, ce ne sono alcune importanti. C'è la novità dell'APE, l'anticipo pensionistico. Dal 1 maggio si attenderebbe la partenza dell'APE. Ci sono però ancora tanti punti in sospeso perché in realtà aspettiamo i provvedimenti attuativi che tardano ancora ad arrivare, e qua oggi è il 10 aprile, non sappiamo se ci si potrà mettere in regola con questi provvedimenti entro la scadenza naturale dell'avvio dell'operazione, che sarebbe quella appunto del 1 maggio. E poi c'è l'altra notizia importante che riguarda il cumulo contributivo, e cioè la possibilità per cumulare gratuitamente i versamenti appunto effettuati in diverse gestioni nel nostro passato professionale. È un'opzione che va richiesta solo all'atto del pensionamento, questa però è concreta, è già possibile farla, e allora noi stamattina abbiamo deciso di fare un focus su questo. Questi sono solo due degli argomenti di cui si sta parlando proprio oggi qui al Sole 24 Ore, all'ottava edizione di Tutto Lavoro, è l'evento dedicato all'analisi e all'approfondimento dei cambiamenti nel mondo del lavoro dopo il Jobs Act. Peraltro nel pomeriggio dovrebbe arrivare anche Stefano Patriarca, che è il consigliere economico dell'unità di coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio. Parlerà anche dell'impatto della riforma delle pensioni sul mercato del lavoro, ma insomma i temi all'ordine del giorno sono tanti. Ma noi abbiamo strappato lo stesso dalla scaletta dell'evento l'esperto del Sole 24 Ore, Fabio Venanzi, che è venuto a raggiungerci qua in studio. Di solito lo sentiamo solo telefonicamente, stavolta l'occasione è stata troppo ghiotta per non farlo venire qui in studio. Finalmente. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, Fabio, grazie per essere con noi. E intanto ricordo anche agli ascoltatori che possono intervenire in diretta all'800 24 00 24. Nel vostro percorso avete versato contributi previdenziali in casse diverse? Sapete come funzionerà il momento della pensione? Vi è chiaro come funzionerà la procedura? Se naturalmente ve ne vorrete avvalere del cumulo gratuito, se non volete chiamarci ci potete scrivere al 349-238-6666. Prima di tutto però vorrei avere delle novità di prima mano sull'APE, perché Fabio Venanzi ce le porta proprio. Cosa è stato detto fino a questo momento a Tutto Lavoro? Si parte o non si parte il 1 maggio? Abbiamo delle notizie? Allora, i decreti attuativi non sono stati ancora pubblicati. È notizia proprio di questa mattina che uscirà il decreto per l'APE sociale, e quindi sarà possibile farvi ricorso dal 1 di maggio, mentre per l'APE volontaria, e quindi anche per l'APE aziendale, bisognerà attendere il consigliere economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Leonardi, ha detto che non ce la faranno per questioni proprio di implementazione dei sistemi di ricezione delle domande, delle varie fattispecie che si possono verificare. Quindi per l'ape volontaria ci sarà sicuramente uno slittamento, mentre per quella con finalità sociale, che è appunto l'ape sociale, che comporta l'erogazione di una indennità in sostituzione di un assegno pensionistico, dove ricordiamo c'è un tetto massimo di 1.500 euro lordi mensili, poiché la norma, la legge di bilancio, aveva già individuato le quattro categorie di lavoratori che potevano farvi ricorso, quella verosimilmente andrà a regime, in vigore il 1° di maggio prossimo. E insomma, nonostante tutte le premesse e le aspettative, è una procedura un po' più complicata da far decollare, no Venanzi? L'idea mi pare questa. Sì, anche perché siamo il primo paese in Europa sicuramente che mette in piedi uno strumento di flessibilità che non grava sulla spesa pensionistica intesa proprio in senso tecnico, perché nel caso dell'ape volontaria, ricordiamo, si parla di un prestito, di fatto è un mutuo che le banche concedono ai lavoratori, dove la garanzia è data dalla prestazione pensionistica che verrà raggiunta all'età prevista per la vecchiaia. Nel caso dell'ape sociale invece c'è un fondo istituito presso il Ministero che copre proprio questa spesa, che ha natura indennitaria, certo, e non previdenziale. Senta, io le faccio questa considerazione, poi andiamo al nostro cumulo gratuito. Adesso, a prescindere dalle questioni tecniche che stanno ritardando l'approvazione delle misure attuative, secondo lei ci può essere anche l'ipotesi che non molti lavoratori aderiranno a questa opzione e quindi anche un po' questa preoccupazione sta facendo slittare? Allora, sull'ape volontaria sicuramente il numero che, diciamo, di potenziali beneficiari che il governo aveva previsto, e parliamo di 300.000 unità come platea di soggetti possibili, possibili, perché hanno un'età compresa tra i 63 e i 67 anni, diciamo, quindi sicuramente non sarà quella l'effettiva platea poi degli aderenti all'opzione. Esatto. Anche perché non ci dobbiamo dimenticare che comunque è un'operazione costosa, cioè io mi vado a garantire un reddito ponte tra i 63 e i 66 anni e 7 mesi, e che poi dovrò restituire nei 20 anni successivi al pensionamento, quindi significa vivo 3 anni e 7 mesi con un prestito che mi concede la banca a tasso comunque vantaggioso, agevolato, ma sempre un prestito da restituire. Non è tanto il problema del prestito, ma quanto il costo dell'assicurazione che copre il rischio di premorienza, che il prestito si aggira attorno al 2,75 anno tasso fisso, ma il costo dell'assicurazione, secondo indiscrezioni, siamo sul 29%. E quindi, insomma, temi, aspetti di non facile comprensione per il lavoratore in procinto di andare in pensione, che probabilmente rendono un po' non troppo chiara l'operazione tutta da poter valutare per il lavoratore che ne avrebbe appunto la facoltà e di conseguenza. Detto questo, siccome non abbiamo ancora le misure attuative complete, è inutile che stiamo facendo tutti questi ragionamenti, e quindi andiamo al cumulo gratuito. Allora, partiamo intanto dalla ricostruzione della situazione, di tutta la faccenda. Come ci si doveva comportare fino all'anno scorso, dottor Venanzi, nel caso in cui i lavoratori appunto che ci stanno ascoltando avessero avuto una vita lavorativa un po' intensa, variegata, eterogenea, e quindi magari avendo fatto scelte professionali diverse hanno periodi di contribuzione versati a casse differenti. Quindi noi conoscevamo i due grandi istituti della totalizzazione e della ricongiunzione. C'entrano, esatto, qualcosa con il cumulo gratuito di cui parliamo oggi? Allora, il cumulo già esisteva nel nostro ordinamento, perché era stato istituito alla fine del 2012 dalla legge 228. È stato poco utilizzato perché i paletti che la normativa aveva previsto affinché il lavoratore potesse farvi ricorso erano comunque molto stringenti. Quindi il più delle volte il lavoratore che si trovava una carriera contributiva frazionata doveva far ricorso o alla ricongiunzione onerosa, che consente appunto il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, e quindi in sede di determinazione della pensione poi si sarebbero applicate le regole di calcolo della gestione più vantaggiosa, dell'ultima gestione dell'ultima, dove il lavoratore... Quindi io, per esempio, che ho IMSS ed INPGI, faccio sempre questo esempio per far capire ai nostri ascoltatori, ecco, dovrei far diventare tutti INPGI anche quella quota di IMSS versata qualche anno, esatto, fa quando facevo e quindi anche un per gli lavoro, anni, esatto, lavorati con contribuzione presso l'INPS verrebbero valorizzati come, esatto, se fossero stati lavorati con iscrizione e sono sempre INPGI. Molto molto onerose queste operazioni. Sì. E invece l'istituto della totalizzazione, che è a costo zero, ma in realtà io la chiamo è un'operazione a onerosità indiretta, per il semplice fatto che il lavoratore non sostiene nessun onere nell'immediato per accedere alla pensione, ma corre il rischio di vedersi calcolare i singoli prorata di pensione con le regole del sistema contributivo, e quindi perde, soprattutto per i lavoratori diciamo più anziani contributivamente parlando, il sistema misto o retributivo, quindi non sostengono un onere direttamente, ma poi lo sostengono indirettamente perché avranno una pensione di gran lunga inferiore rispetto a quella a cui avrebbero avuto diritto. Naturalmente ci sono poi delle eccezioni, perché sappiamo che in ambito pensionistico, sì, previdenziale, ognuno di noi è un'eccezione, esatto, veramente, quindi al suo caso. Non, di norma quello, certo, che diciamo vale per la generalità dei lavoratori, ma non è detto che poi, certo, per tutti sia effettivamente così. Tra questi due grandi monoliti, chiamiamolo così, c'è è arrivato il cumulo. Il cumulo che consente di lasciare i contributi nelle singole gestioni dove risultano versati i contributi, quindi non c'è necessità di fare la ricongiunzione né di ricorrere alla totalizzazione, in quanto ogni gestione calcolerà il proprio pro quota di pensione secondo le regole dei singoli ordinamenti. Quindi, volendo ritornare all'esempio che avevi fatto prima tu, Deborah, avremo una quota di pensione calcolata dall'INPS con le retribuzioni che hai percepito quando eri assicurata presso l'INPS, e avresti una seconda quota di pensione che è quella calcolata invece con le regole proprie, certo, dell'INPG. I contributi vengono considerati riunificati solo ai fini del diritto, perché qualora tu decidessi di accedere alla pensione in regime di cumulo, la novità di quest'anno fondamentale è che è possibile farlo anche per le pensioni anticipate, cioè l'accesso con 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici, 42 anni e 10 mesi per i lavoratori. Inoltre abbiamo anche l'estensione del cumulo alle casse di libero professionisti, cosa che invece fino alla fine dello scorso anno non era previsto. Esatto, questa è la grande novità. E l'altra novità è che è possibile ricorrere al cumulo anche nelle ipotesi in cui il lavoratore avesse già perfezionato un diritto a pensione in una delle gestioni, cosa che fino al 2016 invece precludeva la possibilità di ricorrere al cumulo. Certo. Quindi hanno tolto tutti quei paletti che di fatto costituivano ostacolo per ricorrere al cumulo stesso. Io tra l'altro sto continuando a fare il mio esempio, detto questo, per fortuna o sfortuna non sono in procinto di andare in pensione. Il tema è che però questa è una scelta che si fa proprio nel momento, esatto, del pensionamento, no? Quando il lavoratore è prossimo alla pensione, non ci dobbiamo dimenticare che mentre per la totalizzazione i requisiti sono particolari perché non sono stati interessati dalla riforma del 2011, con la ricongiunzione applichiamo i requisiti vigenti nella gestione dove il lavoratore risulta da ultimo iscritto, nel caso del cumulo applichiamo i requisiti previsti dalla riforma Montifornero, quindi 66 anni e 7 mesi per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata, e questo è questo. No, intanto, esatto, no, stavo guardando anche i messaggi che ci stanno arrivando tantissimi da parte degli ascoltatori, che come al solito hanno come grande gettonato un ente previdenziale, poi gliele giro queste domande. Venanzi, il tema è capire, siccome la, come dire, di primo impatto, grosse differenze per un comune mortale tra la totalizzazione e il cumulo gratuito non ce ne sono, nel senso, come faccio io a stabilire qual è l'opzione che mi conviene di più nel caso in cui fossi un lavoratore appunto pronto ad andare in pensione che ha queste due scelte di base? Allora, come regola generale possiamo dire che se il lavoratore riesce a raggiungere il requisito per la pensione anticipata, quindi 42 anni e 10 mesi per i lavoratori, il cumulo è più conveniente rispetto alla totalizzazione. Rifacciamo anche un po' l'ABC della pensione anticipata. In realtà ho tanti contributi versati, non ho raggiunto il requisito anagrafico per la pensione, però ci posso andare prima perché ho lavoro da tanto. Esatto, e quindi, insomma, quest'anno, fino al 2018 gli uomini accedono con 42 anni e 10 mesi, le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi, quindi in questo caso possiamo dire che il cumulo è sicuramente più vantaggioso. La totalizzazione potrebbe avere un calcolo più generoso rispetto al cumulo nell'ipotesi in cui i montanti contributivi siano particolarmente alti, per contante contributivi intendiamo l'importo dei contributi versati dal lavoratore e dall'azienda, per cui il calcolo contributivo possa risultare più conveniente rispetto a quello del cumulo. Dobbiamo sapere però che la pensione in regime di cumulo si consegue, appunto abbiamo detto, a 66 anni e 7 mesi, mentre la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, poiché sconta ancora la finestra mobile che era stata introdotta prima della riforma, arriviamo a 67 anni e un mese di età, quindi è posticipata rispetto al cumulo. Certo che io tante volte capisco anche l'INPS come faccia difficoltà a rispondere al call center, a ricevere tutte queste persone, perché mettersi lì come funzionario a studiare. Poi magari per questi professionisti ci sono, come per Fabio Venanzi, degli automatismi di pensiero che fanno avere una fotografia immediata della situazione individuale, ma è tutt'altro che banale. La pratica fa tanto. Tanto di cappello Venanzi per la sua competenza. Allora, intanto, no, quello che va, adesso sentiamo velocemente Giorgio e Mauro, che ci chiamano entrambi dal Veneto, da Vicenza e da Treviso, però le vorrei chiedere, Venanzi, proprio questa è una banalità, due situazioni professionali diverse nella nostra vita, due enti previdenziali con cui ci siamo confrontati. Quando, se decideremo appunto per il cumulo gratuito, quindi il trattamento pensionistico è utile, è unico, ma valutato pro quota a seconda dei due regimi pensionistici, arrivano due assegni oppure arrivano assegno unico, ma... L'assegno è sempre unico ed è pagato sempre dall'INPS, anche qualora non dovesse essere pagatore. Il nostro interlocutore nessuna... è sempre l'ente previdenziale. Esatto. Anche nel mio caso, che avrò per esempio in futuro come regime pensionistico prevalente i versamenti effettuati all'INPG? La domanda però va fatta presso l'ultimo ente previdenziale dove risulta iscritto. Stavamo dicendo prima che il regime di cumulo, la domanda va fatta appunto in prossimità della pensione, perché quando il lavoratore presenta la domanda manifesterà la volontà di voler ricorrere al cumulo contributivo. Mm-hmm. Benissimo. Allora sentiamo velocemente Giorgio da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Giorgio. Buongiorno, ci dica. Allora, senta, io ho lavorato come dipendente fino a qualche anno fa in Inghilterra, con busta paga regolare per più di 5 anni, mm-hmm. e quindi sono stati versati contributi previdenziali all'ente inglese. Ora, che cosa mi può riconoscere l'INPS e come faccio a far riconoscere eventualmente dall'INPS questo periodo, sia ai fini dell'importo dell'assegno, o ai fini degli anni lavorati? Certo. Giorgio, lei deve andare in pensione a breve, peraltro? Sì. Grazie. Allora, da quello che mi risulta c'è una precisazione dell'INPS a proposito dei periodi di contribuzione estera. Interessano questi aspetti anche Giorgio, secondo lei, Venanzi? Sì, allora, per quanto riguarda i contributi accreditati in stati appartenenti alla comunità europea, come la Gran Bretagna, non ci dobbiamo dimenticare, noi ne abbiamo Brexit, parlato peraltro, all'indomani del referendum. Però lui proprio ha versato un bel po' fa, quindi... Sì, infatti comunque viene tutelata la posizione del lavoratore nel momento in cui risultano versati, e comunque poi anche qualora questi contributi non dovessero essere più utilizzati nell'ambito della comunità europea, saranno utilizzati nell'ambito del cosiddetto sistema di sicurezza sociale tramite apposite convenzioni. Questi 5 anni lavorati in Inghilterra potranno essere utilizzati in Italia, saranno utili ai fini del diritto e ai fini della misura, ottimo. Quindi comunque incrementeranno l'anzianità contributiva di Giorgio. La quota che però l'INPS metterà in pagamento in Italia sarà data dal rapporto tra gli anni effettivamente lavorati in Italia e quelli complessivamente lavorati, considerato anche l'Inghilterra. Quindi supponiamo che Giorgio sia arrivato a vecchiaia e abbia 30 anni in Italia e 5 anni in Inghilterra, in Gran Bretagna si vedrà determinare una pensione calcolata su 35 anni di contributi, ma l'Italia metterà in pagamento 30-35esimi, cioè viene effettuato proprio un prorata, una proporzione tra gli anni complessivamente lavorati e quelli lavorati in Italia. Ma quest'uomo è una macchina da guerra, io lo guardo incantata, no, veramente, no, ma magari avere la padronanza di chissà poter sviscerare questi argomenti, ma ci arriveremo anche chissà noi. Chissà cosa mangia. La curcuma. Vedi, poco e si muove molto, vedi, sì. Perché il cervello ha bisogno di movimento e di nutrimento, di quello giusto. Allora velocemente rispondiamo anche a Mauro e poi dopo lo lasciamo tornare a tutto lavoro. Mauro, benvenuto, grazie. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e anche al vostro ospite. Io ho 54 anni, ho cominciato a lavorare nell'83 e ho versato contributi INPS, Enasarco e gestione separata. E allora, ammettendo di dover andare in pensione domani, possono essere questi trattamenti cumulati gratuitamente, Venanzi? Allora, l'Enasarco no, perché è un ente integrativo. Sa quante e va domande, lasciato... dovremmo fare una trasmissione solo sull'ente. Quindi l'Enasarco, mondo del commercio. Mauro riuscirà a conseguire una pensione a carico dell'Enasarco solo se riuscirà a conseguire almeno 20 anni di contribuzioni in Enasarco. I contributi della gestione separata per loro natura non possono essere ricongiunti, quindi potranno essere o totalizzati o cumulati, dipende da quanto a quanta anzianità contributiva ammontano. Non ci dobbiamo dimenticare però che qualora Mauro, a parte che è giovane di età perché ha 54 anni, sì, e avendo iniziato a lavorare non è per ora, nell'83, diciamo, insomma ancora gli manca qualche lustro, se dovesse riuscire a conseguire la pensione a carico dell'INPS, i contributi a carico della gestione separata daranno luogo alla cosiddetta pensione supplementare. Però insomma, c'è anche se la pensione non è dietro l'angolo, qualcuno si comincia già a interessare a tutte le opzioni possibili. Detto questo, non, forse sono lavori ed esercizi inutili, visto che ogni anno abbiamo una grande novità. Per cui, però insomma, è buona anche questo atteggiamento di consapevolezza che molti ascoltatori manifestano. Previdenziale. Valeria ci chiede, Venanzi poi la lascio, solamente se possiamo ripetere l'età per accedere al cumulo gratuito. Allora, 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori, visto che Valeria però è una donna, bisognerebbe conoscere. Guarda se come ti sfodera le tabelle. Nel settore privato o come dipendente o come autonoma, comunque se fosse una lavoratrice del settore privato dipendente, quest'anno accederebbe al cumulo con 65 anni e 7 mesi, se invece fosse una lavoratrice autonoma del settore privato, 66 anni e un mese. Invece la pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Quando torna a Milano da noi? Quando vuoi. Quando Bene. Viene? Grazie. Grazie a voi. Allora, sì, sono le 11:29, ci riprendiamo un'altra piccola pausa. Io racconto i mercati, tu che cosa bolle nella tua pentola? È proprio il caso di dire pentola. Parliamo di curcumina, ma non solo, delle sostanze a cui la ricerca ha riconosciuto un effetto protettivo e preventivo per il nostro cervello, perché il mese del cervello qua a Cuore Denari con la salute viene parlando, noi vogliamo diventare tutti come Venanzi. Eh beh, bello, ecco, attivo, quindi, lucido, no, poi la lucidità di pensiero che ha manifestato mia. È invidiabile, grazie. Ci fermiamo, la borsa tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Cuore e denari. Sì, noi nel mese del cervello, aprile, con la salute viene parlando insieme agli specialisti Humanitas, esatto, ogni mese ci occupiamo di un tema, un problema diverso. Del nostro corpo. Abbiamo aggiunto un posto a tavola perché abbiamo invitato la dottoressa Elisabetta Menna, che è ricercatrice di Humanitas e dell'Istituto di Neuroscienze del CNR. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben accomodata a Cuore Denari, è una new entry. Ecco, noi adesso abbiamo appena finito di chiacchierare con Fabio Venanzi, dottoressa Menna, di cui abbiamo apprezzato la lucidità di pensiero. Si ricorda tutto quest'uomo e gli abbiamo chiesto su che tema, direi, su che più tema, che altro, molto, ecco, spinoso, e gli abbiamo chiesto naturalmente che mangi, cosa fai. Lui ha detto: mangio poco e mi muovo molto, e questo è già un buon passo per il cervello, vero dottoressa? Esatto, sì, ecco. Sì, sì, esatto. Però noi, dato che si sente sempre parlare di sostanze che sembra abbiano un effetto straordinario per il nostro cervello, volevamo vederci più chiaro, e allora abbiamo detto: aspetta che telefoniamo alla dottoressa Menna per raccontarci questa benedetta curcumina. Ricordiamo che la curcuma è una pianta erbacea, è originaria dell'Asia sudorientale, è largamente impiegata come spezia nella cucina indiana, thailandese e anche nelle altre aree dell'est del pianeta. Le vengono riconosciute una serie di proprietà. Dottoressa Menna, quanto c'è di vero? Che cosa dice la ricerca? È davvero la sostanza proprio più amica del nostro cervello, quella che può cambiare veramente il destino della nostra mente? Allora, sicuramente è una delle sostanze amiche del cervello. Come diceva lei, diciamo, ultimamente è stata investigata da numerosi studi. Il principio attivo, diciamo, che è importante è la curcumina, e nella pianta ovviamente è contenuta in quantità non elevatissime. Tuttavia un consumo diciamo costante può in effetti avere dei benefici. I principi della curcumina, diciamo i principi benefici della curcumina, sono legati alle sue proprietà antinfiammatorie, e quindi si è visto, numerosi studi hanno visto che può aiutare anche a prevenire, diciamo, il declino delle funzioni, diciamo, del cervello durante l'invecchiamento, anche talvolta associata a patologie. Quindi, diciamo, è senz'altro una sostanza molto benefica proprio per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, è ricca di omega 3, quindi ha tutto, diciamo, ha un pedigree, diciamo, estremamente favorevole per il benessere del nostro cervello. Non è ovviamente l'unica sostanza. Perché lei che il cervello lo studia ci può anticipare, anche ci può dire quali altre sostanze sono state studiate, indagate dalla ricerca, perché non possiamo naturalmente insaporire i nostri piatti solo con la curcuma. C'è dell'altro e c'è di più, si può fare di più. Esatto, infatti diciamo che numerosi studi hanno permesso di stilare una lista che si chiama amica del cervello, perché contiene degli alimenti che fanno, diciamo, assolutamente bene. Dai, che dobbiamo, diciamo, proviamo anche con questi, dottoressa Menna. Dai, allora. Sicuramente, diciamo, i vegetali della famiglia delle brassicacee, cioè dei cavoli, quindi broccoli, cavolini, cavolfiori, perché sono comunque molto ricchi di vitamina C e di acido folico. Okay. E quindi si è visto che sono molto, diciamo, favorevoli per aumentare la memoria, favorire la concentrazione, l'attenzione. Poi un'altra categoria sono le noci, perché le noci contengono tantissimi acidi grassi di tipo omega 6 e omega 3 e vitamina E, vitamina B6. Quindi di nuovo, diciamo, si è visto che aiutano a mantenere la funzionalità del sistema nervoso a vari livelli. E quindi inoltre i mirtilli, che contengono molte antocianine e cianidine, quindi di nuovo sostanze che favoriscono l'eliminazione dei radicali liberi, favoriscono le reazioni antinfiammatorie, perché comunque è noto che durante l'invecchiamento diciamo aumenta quello che è il carico infiammatorio del cervello, e legato a questo aumento, diciamo, si ritiene che in gran parte il declino cognitivo possa essere, diciamo, dovuto anche a questo aumento di infiammazione, diciamo. E quindi chiaramente questi alimenti, vegetali, noci, curcumina, mirtilli, favoriscono quello che è il mantenimento del benessere del nostro cervello, del nostro sistema nervoso. Per qualsiasi dubbio, richiesta, curiosità, voi dovete scrivere, perché gli specialisti di Humanitas sono a nostro fianco sempre, ma tutto il mese di aprile, specificatamente per il cervello. Naturalmente impareremo non solo che cosa mettere a tavola, ma anche il movimento importante, dottoressa, lo vogliamo ricordare, perché per il cervello, per un buon cervello ci vogliono buoni piedi. Noi tra poco parleremo proprio della salute dei nostri piedi con un grande esperto, quindi anche il movimento, non solo quello che mangiamo. Ma invito ancora i nostri ascoltatori, se vogliono essere informati sulle novità della ricerca in campo anche per le malattie neurodegenerative, scriveteci, comunicate con noi, mandateci un WhatsApp vocale se avete un familiare che è affetto da una malattia neurodegenerativa, o se ci sono dei segnali che vi creano un po' di dubbi, allarme, sospetto, chiamateci, scriveteci, parlate con noi, perché la salute viene parlando. Dottoressa, a che cosa sta lavorando, che cosa sta studiando di bello in questo momento per noi, per farci diventare sempre più intelligenti? Sì, stiamo comunque studiando quelli che sono i meccanismi molecolari alla base di questi, diciamo, di questi processi che si possono, diciamo, riscontrare, ecco. Ecco, Deborah, dovremmo fare una puntata con il professione ricercatore, perché è una professione molto interessante che richiede molta determinazione, molto studio, grandi sacrifici, dottoressa, anche Menna. Sì, anche, però è un lavoro bellissimo. È un lavoro bellissimo. Estremamente motivante. Ecco, che lei consiglia, quando ha deciso di diventare ricercatrice? Quando le si è accesa la lampadina? piccola, devo dire, sì, da piccola. E poi ha puntato, vedi? Ha puntato in alto, ha puntato al cervello. No, è interessante perché poi molti ambiti di ricerca non vengono adeguatamente remunerati, diciamoli così, nel senso che tante volte si ha un po' l'idea e l'immagine del ricercatore come di quel lavoratore precario che invece è tutt'altro che così in qualche ambito che ha la fortuna di essere finanziariamente sostenuto, no dottoressa? Perché c'è anche questo aspetto da considerare. Sì, no, certamente questo aspetto, diciamo, è un aspetto importante, i sacrifici sono tanti, però... appunto trovare una motivazione dietro è una vocazione, è una vocazione. Allora lavori per noi e intanto ci aggiorni, mi raccomando, noi siamo qua, l'aspettiamo per il prossimo appuntamento. Grazie alla dottoressa Menna. Grazie a lei, grazie a voi, buongiorno a tutti. E abbiamo detto che il cervello, per funzionare bene, non solamente il cervello, ma il nostro organismo in genere ha bisogno di muoversi. E allora noi oggi ci occupiamo dei nostri piedi. Finalmente è tornato a trovarci il professor Luca Vagnino. Vagnina, buongiorno. Buongiorno a lei, è vero, un po' di tempo che non ci sentivamo. Esatto, direttore di laurea in chirurgia podologica all'Università di Barcellona, però lavora anche qua in Italia da noi, dottore. Sì, lavoro professore. Soprattutto in Italia, vado all'estero per prendere l'eccellenza e continuare a tenermi aggiornato e migliorare i nostri standard di terapie per i nostri pazienti. Però l'ha preso l'accento spagnolo, si sente un po' la declinazione. Hola, Vagnina, hola. Allora, noi continuiamo, abbiamo detto, facciamo una sorta di viaggio dalla testa ai piedi, perché ci vogliamo occupare con lei dei nostri piedi. Secondo l'OMS, per stare bene dovremmo fare 10.000 passi al giorno, che è una bella sfida, ma ce la si fa, mettiamo il contapassi. Lei riesce, professore? A mettere i contapassi a me no, perché sono sempre in studio che faccio nel mio studio. Però poi... quando sono fuori cerco di farli, perché sono decisamente d'accordo che camminare fa bene ed è l'unico sistema che in tutte le fasi dell'età, anche in età avanzata, ma anche a 90 anni e oltre, ci sono degli esempi di persone che fanno ancora cammini di Santiago, maratone a oltre 90 anni, perché li mantiene... vivi e vegeti, come si dice, camminare così tanto è bene. Allora, per camminare bene ci vogliono buoni piedi, bisogna avere attenzione e cura di queste, delle nostre estremità che sorreggono tutto il nostro peso e che noi tendiamo a trascurare o a costringere in delle calzature che non sempre regalano loro benessere e comodità. Professora Vagnina, iniziamo proprio, prima di parlare dei nostri piedi, a parlare delle scarpe, perché a volte proprio le nostre scarpe sono delle prigioni per i nostri piedi, siamo attratti dalla moda, vogliamo la scarpina, il tacco, d'altra parte anche l'occhio vuole la sua parte, ma il professor Vagnina, ma i piedi si lamentano e presentano i conti nel breve e nel lungo periodo. Allora, specialmente le donne italiane sono abituate all'eleganza totale e la scarpa fa parte di questo concetto di eleganza italiana che è bellissimo nel mondo, però effettivamente, come dice lei, si paga uno scotto. C'è da dire che dovrebbero diventare un po' più le donne, un pochino anche gli uomini italiani. A New York fanno quello che io chiamo un pit stop, cambiano le scarpe dai tacchi 10, scendono a scarpe da running, è molto semplice perché si sono resi conto che camminare bene vuol dire saper utilizzare la scarpa giusta nel momento giusto. Voi a Milano so che siete pieni di saloni, frittiere, anche in sto periodo, e quindi andare con un tacco così in un salone del genere e pensare di star bene tutto il giorno è veramente un'ardua impresa, se non un lavoro, una mission impossibile. Perché il mal di piedi, quando hai male ai piedi non riesci neanche più a connettere. Noi ci fermiamo perché ne parliamo, qual è la scarpa migliore da utilizzare, quella che riesce anche a coniugare praticità e anche un po' di moda e di bellezza, e soprattutto si lamentano i vostri piedi, lasciateli lamentare, chiamateci l'800 24 0024, il professora Vagnina si occupa di voi e di loro, naturalmente. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta... Cuore e denari. Adatta ai nostri piedi. Purtroppo le esigenze dell'industria calzaturiera impongono di fare delle calzature uguali, cioè di massa, in cui si sono presi dei parametri e si fa una media, ma come lei sa ogni essere umano e ogni piede è a sé, quindi il cercare di tentare, come i vestiti, tentare di metterci in un vestito standard quando abbiamo rispetto a altro, È anche vero che più noi andiamo, se abbiamo, il nostro piede normale è un piede che ha una forma delle dita, soprattutto dell'avampiede, di tipo quadrato la maggior parte, mm-hmm. anche se esistono poi i piedi egizi o greci, cosiddetto, che sono un po' più triangolari. Ma come lei ben sa, mettere una forma quadra in una forma triangolare come quella di una scarpa a punta non può che creare dei problemi. Quindi la scarpa migliore è una scarpa che meglio si adatta alla forma delle nostre dita, ecco, del nostro avampiede. Quella che assomiglia di più al nostro piede. Sì, esatto. Allora, volevo fare una domanda al vostro ospite, ci scrive Stefania da Brescia. Mia mamma, dei piedi disastrati, ha un piede valgo contratto con pollice valgo che fa accavallare il secondo dito sul terzo. Insomma, professore, poverina. Ecco, iniziamo da quella che viene chiamata la cipolla, l'alluce valgo. Professore, naturalmente infilare questo piede un po' dolente in una calzatura può essere difficoltoso. Quali consigli vuole dare, soprattutto per non far peggiorare la situazione? Sì, premesso che la soluzione va valutata sempre con una visita podiatrica che permetta di capire se ci sono indicazioni chirurgiche o ortesiche, l'aiuto della scarpa giusta è fondamentale. Esistono in commercio delle scarpe in ditte specializzate che si trovano più nelle sanitarie o nelle ortopedie, non nei negozi tradizionali, che hanno degli extra volumi e dei materiali con tomaie elasticizzate, senza cucitura, senza compressione di nessun tipo, che permettono comunque di evitare quelle forze che fanno ammalare e soprattutto dolere questo piede con queste tutte deformazioni delle dita che non possono stare in una scarpa normale in queste condizioni. Ci vuole una scarpa ad hoc. Enza, buongiorno da Verona, benvenuta. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Professore, senta, io indosso gli zoccoli di legno della Scholz da circa 30 anni, tutti i giorni con una media di 8-9 ore al giorno, cammino molto eccetera, li porto perché ho provato quelli tipo in plasticone ma non riesco, mi sudano troppo i piedi eccetera. Ovviamente non sono più giovanissima e ho portato per parecchi anni anche i tacchi alti, adesso mi si sta presentando il conto, nel senso che ho in un piede, il sinistro, leggermente un alluce valgo. Ma quello che mi chiedo è che, ovviamente, al di là di quello che si presenta, no, duroni ai piedi con cui devo regolarmente andare a fare una pedicura, eccetera, cosa che faccio, io chiedo una cosa, quale sarebbe la scarpa idonea per me, perché io adesso a questo punto questo discorso dell'alluce valgo mi dà un po' fastidio, non in quanto mi fa male, ma in quanto estetico. Proprio non ci piace, è vero. Infradito! Adesso tra un po' arrivano l'infradito, arrivano i sandali. Allora, professore, lei in parte aveva già risposto ad Enza, prima che noi la facessimo intervenire, ma se vuole magari dare un consiglietto in più, noi la ringraziamo. Allora, signora Enza, innanzitutto non penso che lei porti tutti questi sandali rigidi in legno tutto l'anno, perché d'inverno è difficile da gestire per le strade di Milano. Penso di Verona o di dove è, dal nord. Però detto questo, allora, se il problema della luce valgo è un problema solo estetico, oggi esistono degli interventi di chirurgia mini-invasiva che con un buchino di 3 mm eliminano con una sorta di fresatura, la facciamo velocemente, quella esostosi o quella cipolla dal punto di vista estetica, non raddrizzano nulla, ma tolgono quella fastidiosa estetica, protuberanza estetica che alle donne non piace. Sì. Se invece c'è un problema funzionale, allora va impostata la visita e quindi il trattamento in maniera totalmente diversa. E quindi oggi, però, per fare diagnosi ci vuole un esperto che... Ci vuole sempre una visita podoiatrica ben fatta, perché lì si fa la base e si ragiona col paziente in maniera molto personalizzata su quali sono i suoi problemi e le soluzioni possibili, in modo che sia poi il paziente a sceglierle con serenità una volta che viene messo a conoscenza di tutte le possibilità, chirurgiche, non chirurgiche, ortesiche, di calzatura. Però il portare un sandalo duro con la presenza di duroni, come diceva lei, e iperkeratosi, cioè calli sotto la pianta, io le sconsiglierei, ad esempio, perché oggi esiste la possibilità di fare una sorta di plantare su misura e poi costruirci sopra un sandalo, tanto per citare, tipo Birkett o con una tomaia, che è fatto su misura e permette di camminare senza quei problemi, cioè e senza grandi difficoltà. Quindi un guantino per il nostro piede delicato. Allora, professora Vagnina, devo portarla sul problema unghie, perché spesso a farci vedere le stelle è proprio un'unghia, in modo particolare quella dell'alluce, e questa l'unghia che ci può dare più problemi. Sì. Professore. Ecco, questa è la tipica unghia incarnita. E per me è un problema grande. Noi abbiamo dedicato un sito proprio a questo argomento, perché da tutta Italia ci chiamano, perché hanno tentato soluzioni di tutti i tipi, ma non sono arrivate. Anche dolorosissime. Sì, molto dolorose, ecco. Invalidanti e anche pericolose, perché quando c'è un'infezione può colpire poi le ossa e estendersi, quindi bisogna prenderla in tempo. Oggi esistono anche qui tecniche mini-invasive, chirurgiche, ma veramente di 10 minuti, che risolvono in maniera definitiva questo problema a chi ha la sfortuna di avere delle unghie di forma strana oppure che si sono deformate e che quindi tenderanno sempre a incarnarsi. Ecco. Il mio consiglio pratico è questo: se c'è un problema che si compare la prima volta, andare da un podologo bravo e farsi fare un trattamento per vedere se lo risolve. Se subito, in un mese, viene risolto, bene. Se no, se recidiva e anni che fate questa cosa e non trovate la soluzione migliore si chiama intervento chirurgico ambulatoriale con fenolizzazione della matrice. Con questa tecnica viene risolto il problema per sempre. Ecco, andiamo a Cesare che ci chiama dalla provincia di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno a lei e al dottore. Complimenti per la trasmissione. Grazie, Cesare. La mia domanda al dottore è questa: come possiamo fare per salvare i nostri piedi da quelle antipatiche delle scarpe antinfortunistiche? Grazie, bella domanda, Cesare. Questa grazie, è una questa domanda. È una bella domanda. Perché, per assurdo, la scarpa antinfortunistica a volte è quella che crea l'infortunio, nel senso che purtroppo anche lì si è fatta una legge intelligente per dire proteggiamo i piedi dei lavoratori, ma poi c'è il problema economico dei costi, quindi ci sono scarpe di bassissimo livello o scarpe iperprotettive rigide che creano a loro volta il problema ai piedi. Quindi anche lì la soluzione per tutti non c'è uniforme, come il legislatore non è riuscito a trovarla. Il mio consiglio è fare una visita quando si hanno problemi con quelle scarpe, in modo che il vostro quali podiatra... sono i segnali che devono comunque farci creare un po' di sospetto? Dolore, sono nelle spine, dolore alle dita, dolore al tallone, esatto. Dolore alle unghie, dolore ai tendini, per esempio al tendine achilleo, dolori non, quindi non solo alla pianta dei piedi ma anche ad altre parti. E quando c'è il dolore, il sintomo dolore vuol dire che qualcosa non funziona. Ora, se è un dolore di mezza giornata, di un giorno, può passare, ma se è un dolore che continua ed è relazionato perfettamente alla scarpa, che metto la scarpa, c'è il dolore, la tolgo, mi passa, vuol dire che quella scarpa non è adatta a noi e un podiatra deve fare una prescrizione per il lavoratore in modo che possa farsi fare o farsi trovare la scarpa antinfortunistica ma adatta al suo piede. Io ho avuto dei casi di pazienti che ho dovuto addirittura proscrivere, cioè non prescrivere, ma vietare la scarpa antinfortunistica perché stava causando dei danni che erano peggiori di quelli che avrebbe dovuto prevenire, insomma. Allora, professora Vagnini, intanto grazie per questo breve assaggio. Torneremo ad occuparci dei nostri piedi, soprattutto perché adesso poi li scopriamo, per cui li vogliamo non solamente sani ma anche belli. Ci torneremo su questo aspetto. Grazie professore. Intanto scrivete sulla nostra pagina per il dottor Boffi, sono arrivate tante richieste anche per il dottor Venanzi. Su quelle pensioni là, figuriamoci. Su noi vi salutiamo, ci sarò. No, ma io invece ci sono. Cominciamo la nostra maratona al Salone del Risparmio. A presto.